su questo beat. Riascoltala premendo il tasto repeat. Parlo poco, io, ma scrivo tanto. Sul mio quaderno trovi ogni riscontro. Scontro mente e cuore su questa terra. Non so chi vincerà in questa guerra. Ho vinto io, perché parto sempre da sconfitto. Lascio ste merde lungo il mio tragitto. Mi dai del fallito, mi butti il dito. Fiero di me stesso se non l'hai capito. Finto come quando scopri la tua donna. Io ti fotto perché prendo tutto onda. Io non mi vesto di ipocrisia, fra. Conserverò sempre la mia dignità. Rappo mente critichi il mio flow. Mi dispiace, non rallento. Slow fuck. Per i miei nemici stampo un bel sorriso. Per i miei amici invece questo inciso. Scrivo per liberarmi da questa merda. Ho congelato tutti i miei sensi. Guarda, bam bam, sperle qui sul mio volto. Sono sempre vero rispetto a te sotto. Parlami di te e dimmi ciò che hai fatto. Ti porto le mie canzoni e questo è un fatto. Fatto da questa vita anestetizzata. Ricorda bene questo giorno e segnati la data. Testo crudo come quello che racconto. Stiamo nella merda, ce ne rendiamo conto. Conto la rovescia, ti aspetto al varco. La mia vita è al limite, hardcore. Quando ero piccolo, poche fotografie. Da grande fotografo, le mie malinconie. Parlo di me, ma non solo di me stesso. Ma di chi si rispecchia in questo testo. Poche opportunità, raccomandazioni. Una lista insormontabile di tanti nomi. Non ci sto e me ne sbatto di chi si accontenta. Prima di dire no, almeno tenta. Ci vuole coraggio e voglia di cambiare. E con il sacrificio ci puoi arrivare. Per i miei nemici stampo un bel sorriso. Per i miei amici invece questo inciso. Scrivo per liberarmi da questa merda. Ho congelato tutti i miei sensi. Guarda, bam bam, sperle qui sul mio volto. Sono sempre vero rispetto a te sotto. Parlami di te e dimmi ciò che hai fatto. Ti porto le mie canzoni e questo è un fatto.